La riforma dell'istruzione tecnica ha proprio questo significato, far entrare il mondo del lavoro a scuola e garantire quindi occupazione. E il convegno di oggi ha il senso di presentare i contenuti della riforma con le modifiche alla governance, le modifiche ai contenuti delle lezioni all'interno dell'istruzione tecnica e coinvolgere il mondo del lavoro così come anche i distretti. Avremo un forte impegno sul fronte delle lingue. Sappiamo che oggi nel mondo del lavoro è fondamentale la conoscenza dell'inglese ma anche delle lingue straniere, quindi andremo a potenziare l'insegnamento di queste materie prevedendo nell'ultimo anno anche la possibilità dell'insegnamento di una materia che potrebbe essere la matematica o anche la storia in inglese o in una lingua straniera. Poi la possibilità di tenere tirocini e stage in azienda e quindi il coinvolgimento del mondo produttivo è indispensabile per garantire esperienze lavorative e poi ci sarà un monitoraggio sull'occupazione perché vogliamo che non solo potenziare il numero dei profili tecnici ma anche far sì che i profili in uscita siano rispondenti alle esigenze. Oggi abbiamo un problema legato al fatto che è molto più ampia la domanda rispetto all'offerta, ma abbiamo anche una difficoltà di incontro fra il tipo di profilo tecnico richiesto dalle aziende e quello che sforna la scuola. Quindi queste discrepanze non hanno ragione di esistere, vogliamo creare le condizioni per un soddisfacimento da parte di tutti.